Chiamata da Bustianeddu, venne zia Tatana. Si chinò pietosamente sul malato, lo toccò, lo interrogò, gli mise un sacco sotto il capo. Bisogna dargli un po' di brodo, disse sollevandosi. Ah, il peccato mortale, il peccato mortale! Figliolino mio, disse ad Anania, va dal signor padrone a chiedere un po' di brodo per Fescau. Va, vedi come riduce il peccato mortale? Va, prendi questa scodella, va! Egli andò con piacere e Bustianeddu lo accompagnò. La casa del padrone non era lontana ed Anania vi si recava spesso per farsi dare la prebenda del cavallo, i lucignoli per la candela del molino e per altre commissioni. Le strade erano qua e là illuminate dalla luna. Gruppi di paesani passavano cantando un coro melanconico ed appassionato. Davanti alla Casa Bianca del signor Carboni si stendeva un cortile quadrato recinto da alti muri e con un grande portone rosso. I due ragazzetti dovettero picchiare forte per farsi aprire e Anania porse la scodella esponendo il caso di Efescau alla domestica che dischiuse il portone. «Non sarà per voi il brodo, eh?» sogghignò la serva squadrando sospettosi i due amici. «Al diavolo, Maria iscorronca! Noi non abbiamo bisogno di brodo!» gridò Bustianeddu. Animaletto, ora ti pago gli insulti, disse la serva rincorrendolo per la strada. Ma egli fuggì mentre Anania penetrava nel cortile illuminato dalla luna. Chi è? Cosa vogliono? Chiedeva una vocina sottile dall'ombra di una tettoia sotto cui aprivasi la porta della cucina. Sono io, gridò Anania avanzandosi con la scodella fra le mani. Efescau è malato nel molino e mia madre prega la signora padrona che dia un po' di brodo al disgraziato. Oh, vieni, rispose la vocina. In quel momento rientrò la serva, che non avendo potuto raggiungere Bustianeddu, prese a spintoni il piccolo Anania. Allora la bimba, che aveva detto vieni, balzò fuori e difese il figlio del mugnaio. Lascialo! Che ti ha fatto? Disse tirando la sottana alla serva. Dagli subito il brodo, subito! Questa protezione, quel tono da padrona, quella figurina grassa e rossa vestita di flanella turchina, quel nasetto prepotente rivolto all'insù fra le due guance molto paffute, quei due occhi scintillanti alla luna fra due bende ricciolute di capelli rossicci, piacquero immensamente ad Anania. Egli conosceva già la figlia del padrone, Margherita Carboni, come la chiamavano tutti i bimbi che frequentavano il molino. Qualche volta ella gli aveva dato i lucignoli ed anche l'orzo per il cavallo e quasi tutti i giorni egli la vedeva nell'orto ad intervalli anche nel molino, dove ella si recava con suo padre. Ma mai si era immaginato che quella signorina grassa e rossa e dall'aria superba fosse così affabile e buona. Mentre la serva entrava in cucina per prendere il brodo, Margherita domandò ad Anania qualche particolare sulla malattia di Efescau. «Egli oggi ha mangiato qui, in questo cortile?» Ella disse con serietà. «Pareva sano». «È un male che viene agli ubriaconi», spiegò Anania. «Si contorceva come un gatto». Appena dette queste parole, egli arrossì, ricordando il gatto preso al laccio da zio Pera e le 100 lire rubate e nascoste nell'orto. 100 lire rubate! Che avrebbe detto Margherita Carboni se avesse saputo che lui, Anania, lui, il figlio del mugnaio, lui, l'abbandonato, lui, il servo, verso cui la piccola padrona si degnava di mostrarsi affabile e buona, aveva rubato 100 lire e che queste 100 lire erano nascoste nell'orto. Ladro. Egli era un ladro e di una somma enorme. Solo in quel momento percepì tutta la vergogna della sua azione e sentì dolore, umiliazione, rimorso. Come un gatto? Ah, disse Margherita stringendo i denti e torcendo il nasino. Dio mio, è meglio che egli muoia. La serva tornò con la scodella colma di brodo. Anania non poté più aprir bocca, prese la scodella e andò via, piano piano, badando di non versare il brodo. Sentiva una strana voglia di piangere e quando raggiunse Bustianeddu nello svolto della strada, ripeté le parole di Margherita. È meglio che gli muoia. Chi? È caldo quel brodo, ora lo assaggio, disse l'altro, allungando il collo verso la scodella, ma Anania si irritò. Non toccare! Gridò. Tu sei cattivo, tu diventerai come Efes. Perché hai preso i denari? Aggiunse abbassando la voce. È peccato mortale rubare. Vai a riprenderli e rimettili nel cassetto. Popo, sei matto? E io lo dico a mia madre. Tua madre, disse l'altro con ironia, va a cercarla. Intanto camminavano lentamente e Anania guardava sempre la scodella. Siamo ladri, disse a bassa voce. Il denaro è di mio padre e tu sei un mammalucco. Andrò via io solo e Dio solo. Va, che tu non possa più ritornare, ma io lo dirò a zia Tatana. Sì, ora si vergognò di dire a mia madre. Spia! Proruppe Bustianeddu minacciandolo coi pugni stretti. Se tu parli ti ammazzo come una lucertola, ti rompo i denti con una pietra, ti faccio cacciare le viscere per gli occhi. Anania abbassò le spalle, pauroso di rovesciare il brodo e di ricevere i pugni dell'amico, ma non ritirò la minaccia di rivelare ogni cosa a zia Tatana. Che diavolo ti han detto dentro quel cortile? Proseguì l'altro fremente. Chi ti ha detto quella servaccia? Parla! Niente, ma io non voglio essere un ladro. Tu sei un bastardo, gridò allora Bustianeddu. Ecco cosa sei. Io ora vado, riprendo i denari e non ti guardo più in faccia. S'allontanò di corsa, lasciando Anania colpito da un dolore profondo. Ladro, bastardo, abbandonato. Era troppo, era troppo. Egli pianse e le sue lacrime caddero entro la scodella. Ed ora anche Bustianeddu mi abbandona e va via da solo. E io quando potrò partire io? Quando potrò ricercarla? Quando sarò grande? Rispose a se stesso rianimandosi. Ora non mi importa. Tuttavia, appena consegnò la scodella a zia Tatana, corse al finestruolo della stalla. Silenzio. Non si vedeva nessuno, non si udiva nulla nel grande orto umido e chiaro sotto la luna. Le montagne si delineavano azzurre sullo sfondo vaporoso del cielo. Tutto era silenzio e pace. A un tratto giunse dal molino la voce di Bustianeddu. Egli non ha ripreso i denari, pensò Anania. Non è entrato nell'orto. Se andassi io. Ma ebbe paura. Rientrò nel molino e cominciò ad aggirarsi come un gattino affamato intorno a zia Tatana che curava il malato. Ella gli fece la solita domanda: Che hai? Ti fa male il ventre? Sì, andiamo a casa. Zia Tatana capì che gli voleva dirle qualche cosa e lo accompagnò fuori. Gesù, Gesù, Santa Caterina Bella, proruppe appena seppe tutto. In che mondo siamo noi? Anche gli uccelli, anche i pulcini dentro l'uovo commettono il male. Anania non seppe mai come zia Tatana avesse persuaso Bustianeddu a rimettere il denaro nel cassetto, però da allora in poi i due amici si guardarono un po' in cagnesco e per ogni piccola cosa si insultavano e venivano alle mani. L'inverno passò, ma anche in aprile il frantoio continuò a funzionare perché l'abbondanza delle olive era quell'anno straordinaria. Qualche volta però Anania, il mugnaio, chiudeva il frantoio, andava nei campi a zappare il frumento del padrone e conduceva con sé il piccolo Anania, del quale voleva fare un contadino, ed il bimbo lo seguiva, tutto lieto di rendersi utile, recando con alterezza sulle spalle la zappa e la bisaccia delle provviste. In mezzo ai campi, quell'anno coltivati dal mugnaio, sorgevano due pini alti, sonori come due torrenti. Era un paesaggio dolce e melanconico, qua e là, sparso di vigne solitarie, senza alberi né macchie. La voce umana vi si perdeva senza eco, quasi attratta e ingoiata dall'unico mormorio dei pini, le cui immense chiome pareva sovrastassero le montagne grigie e paonazze dell'orizzonte. Mentre il padre zappava, curvo sulla distesa verde chiara del frumento tenero, Anania si perdeva attraverso i campi nudi e melanconici, cantando con gli uccelli, cercando funghi ed erbe. Qualche volta il padre, sollevandosi, lo vedeva in lontananza e provava una stretta al cuore, poiché il luogo, il lavoro, la figurina del bimbo, tutto gli ricordava lì, i suoi fratellini, l'errore commesso, l'amore, le gioie perdute. Dov'era lì? E chi lo sapeva? Ella s'era perduta, s'era smarrita come l'uccellino nei campi. Ebbene, peggio per lei. Anania, il mugnaio, credeva di compiere abbastanza il proprio dovere allevando il figliuolo. Se trovava il tesoro che sempre sognava, manderebbe il bimbo agli studi, se no ne farebbe un buon contadino. Che pretendere di più? E quelli che non riconoscono i propri figli e che invece di raccoglierli ed allevarli cristianamente come egli faceva, Li abbandonavano alla miseria e alla mala sorte? Sì, anche certe persone ricche, anche certi signori facevano così. Sì, anche il padrone, sì, anche il signor Carboni. Basta. Anania, grande, si consolava pensando a ciò. Tuttavia, gli rimaneva in cuore un senso di tristezza e, guardandolo in lontananza, gli pareva di scorgere i nuraghi che circondavano la cantoniera di Olì. E durante l'ora dei pasti, o mentre si riposava all'ombra dei pini sonori, interrogava il figliuolo sulle sue vicende passate. Anania aveva soggezione del padre e non osava mai guardarlo negli occhi, ma una volta spinto nella via dei ricordi, chiacchierava volentieri, abbandonandosi al piacere nostalgico di raccontare tante cose passate. Ricordava tutto: Fonni, la casa, i racconti della vedova, il buon Zuanne dalle grandi orecchie, i carabinieri, i frati, il cortile del convento, le castagne, le capre, le montagne, la fabbrica dei ceri. Ma parlava pochissimo di sua madre, mentre il mugnaio lo tirava sempre su quell'argomento. Ebbene, ti bastonava tua madre? Oh, mai, mai, protestava Anania. Io so invece che ti bastonava. Possiate vedermi senza occhi, se è vero, spergiurava il ragazzetto. E dimmi, che cosa faceva ella? Lavorava sempre. È vero che un carabiniere la voleva in sposa? Non è vero. Essi, i carabinieri, mi dicevano: di a tua madre che venga, abbiamo da parlarle. Ed essa? Chiedeva un po' ansioso il mugnaio. Ah, essa si arrabbiava come un cane. Ah. Il mugnaio sospirava. Provava un senso di sollievo nel sentire che ella non andava dai carabinieri. Ebbene, sì, egli le voleva ancora bene. Egli ricordava con tenerezza gli occhi chiari e ardenti di lei, ricordava i fratellini, il povero e sofferente cantoniere. Ma che poteva farci? Se fosse stato libero l'avrebbe certamente sposata. Invece aveva dovuto abbandonarla. Adesso tornava inutile pensarci. Va, diceva ad Anania, finito il pasto frugale, là dove c'è quel fico, vedi? C'era una casa antichissima. Va e fruga per terra, chissà che tu trovi qualche cosa. Il fanciullo partiva di corsa mentre il padre pensava: le anime innocenti trovano più facilmente i tesori. Se trovassimo qualche cosa, passerei un tanto ad Olì e, morta mia moglie, la sposerei. Dopotutto, sono stato io il primo ad ingannarla. Ma Anania non trovava niente. Verso sera, padre e figlio tornavano lentamente in paese, attraversando lo stradale chiaro nei cui sfondi ardeva il crepuscolo d'oro. Zia Tatana li aspettava con la cena pronta ed il fuoco cigolante nel focolare pulito. Ella soffiava il naso al piccolo Anania, gli puliva gli occhi, narrava al marito gli avvenimenti della giornata. Nanna l'ubriacone era caduta sul fuoco, Efes Cau aveva un paio di scarpe nuove, Zio Pera aveva bastonato un bambino, il signor Carboni era stato al molino per vedere il cavallo. Dice che è orribilmente dimagrato. Diavolo, ha lavorato tanto! Cosa vuole il padrone? Anche le bestie sono di carne d'ossa. Dopo cena, il mugnaio andava alla bettola, perfettamente dimentico di Olì e delle sue avventure, e zia Tatana filava e raccontava una fiaba a suo figlio d'adozione. Qualche volta assisteva anche Busti Aneddu. Dicono che una volta c'era un re con sette occhi d'oro in fronte che sembravano sette stelle. Oppure la fiaba dell'orco e di Marietta. Marietta era fuggita dalla casa dell'orco. Ella fuggiva, fuggiva gettando dei chiodi che si moltiplicavano e coprivano tutta la pianura. Zio Orco la inseguiva, ma non riusciva a prenderla perché i chiodi gli foravano i piedi. Dio, Dio, che brivido di piacere destava nei bimbi la fuga di Marietta. Che differenza fra la cucina, la figura e i racconti della vedova di Fonni, e la cucina pulita e calda, e la figura soave e le storielle meravigliose di zia Tatana. Eppure qualche volta Anania si annoiava, o almeno non provava l'emozione fremente che i racconti della vedova gli avevano un tempo destato, forse perché al posto del buon Zuanne e del fratellino amato c'era Busti Aneddu, cattivo e maligno, che gli dava dei pizzicotti e lo chiamava spia e bastardo, anche davanti alla gente, e nonostante gli ammonimenti di zia Tatana. Una sera lo chiamò bastardo davanti a Margherita Carboni, che assieme con la serva era venuta per una commissione in casa del mugnaio. Zia Tatana gli si gettò sopra e gli turò la bocca, ma troppo tardi. Ella aveva udito ed Anania provò un dolore indicibile, non raddolcito neppure dal pezzo di pane intinto nel miele che zia Tatana diede a lui e a Margherita. A Bustianeddu niente, ma che cos'era un pezzo di pane intinto nel miele dopo la profonda amarezza di sentirsi chiamato bastardo davanti a Margherita Carboni? Ella era vestita di verde, con calze violette ed aveva intorno al capo una sciarpa di lana rossa che coloriva ancor più le sue guance paffute e faceva risaltare l'azzurro degli occhi lucenti. Quella notte Anania la sognò, così bella e colorita come l'arcobaleno, ed anche nel sogno provava il dolore d'essere stato chiamato bastardo davanti a lei. Nella settimana santa, però, quell'anno la Pasqua ricorreva agli ultimi di aprile, il mugnaio compié il precetto pasquale e il confessore gli impose di riconoscere legalmente il figliuolo. Nello stesso tempo, Anania, che compiva gli 8 anni, venne cresimato padrino il signor Carboni. Fu un grande avvenimento per il ragazzo e per la città tutta, che s'era data convegno nella cattedrale, ove Monsignor De Martis, il bel vescovo imponente, impartiva la cresima a centinaia di fanciulletti. Per le porte spalancate, che ad Anania parevano grandissime, la primavera con la sua viva luce e il suo tepore fragrante penetrava nella chiesa gremita di donne dai costumi di porpora, di signore, di bimbi lieti. Il signor Carboni, grosso, rosso in viso, con gli occhi azzurri e i capelli rossicci, col gilet di terziopelo attraversato da una enorme catena d'oro, veniva salutato, riverito, ricercato dai personaggi più cospicui, dai paesani e dalle paesane, dalle signore e dai bimbi che gremivano la chiesa. Anania si sentiva altero e felice di tanto padrino. È vero che il signor Carboni doveva cresimare altri 17 bambini, ma ciò non toglieva importanza al singolo onore di tutti i 18 figliocci. Dopo la cerimonia, questi 18 figliocci coi rispettivi parenti accompagnarono a casa il padrino ed Anania poté ammirare la sala di Margherita, di cui aveva sentito dire mirabilia. Una vasta stanza tappezzata di carta rossa con seggioloni del secolo scorso e cassettoni ornati di fiori artificiali sotto lampade di cristallo, nonché di alzatine con frutta di marmo e piattini con fette di salame e di cacio, pure di marmo. Furono serviti liquori, caffè, biscotti e amaretti, e la bella signora Carboni, che aveva due profonde fossette sulle guance e i capelli neri tirati sulle tempie, graziosamente adorna di un vestito da camera di indiana a quadretti azzurri e rossi, con volante e merletto in fondo, fu amabile con tutti e baciò i bimbi, consegnando a ciascuno di loro un involtino. Lungamente Anania ricordò questi particolari, ricordò che invano aveva ardentemente desiderato che Margherita entrasse nella sala e notasse il suo costumino nuovo, di fustagno gialliccio, duro come la pelle del diavolo. E ricordò che la signora Cicita Carboni, baciandolo e battendogli lievemente la mano inanellata sulla testina orribilmente rasa, aveva detto al mugnaio: «Ah, compare, perché l'avete congiato così? Sembra calvo!» «Lasciate, comare», aveva risposto Anania Grande, secondando il benevolo scherzo della signora. «La testa di questo buon pulcino sembrava un bosco». «Ebbene», riprese la signora, «avete dunque fatto il vostro dovere?» «Fatto, fatto. Me ne rallegro. Credete pure, solo i figli legittimi sono il sostegno dei padri nella vecchiaia». Poi s'avvicinò al signor Carboni. «Che occhi indiavolati ha questo Montanaro», disse guardando il bimbo negli occhi. «Ebbene, perché li abbassi? Ridi? Ah, diavoletto!» Anania rideva di gioia nel vedersi osservato dal padrino e guardato con affetto dalla signora Carboni. «Che cosa diventerai, diavoletto?» Egli abbassava e sollevava gli occhi lucenti che le cure di zia Tatana avevano guarito perfettamente e cercava di nascondersi dietro del padre. «Dunque, rispondi al padrino!» esclamò il mugnaio scuotendolo. «Che cosa ti farai, diavoletto?» «Mugnaio?» chiese la signora. Egli accennò di no, di no. «Ah, non ti piace, contadino?» «No, e sempre no». «Ebbene, vuoi studiare?» chiese astutamente il mugnaio. «Sì». «Ah, bravo!» disse il signor Carboni. «Tu vuoi studiare? Ti farai prete?» «Ancora no». «Avvocato?» chiese il mugnaio. «Sì». Diavolo, diavolo, lo dicevo io che ha gli occhi vivi. Vuol farsi avvocato il piccolo topo. Ah, caro mio, siamo poveri, osservò sospirando il mugnaio. Se il bimbo ha voglia di studiare, la provvidenza non mancherà, disse il padrone. Non mancherà, ripeté come eco la padrona. Queste parole decisero il destino di Anania ed egli non le dimenticò mai più. Il frantoio venne definitivamente chiuso per quell'anno e il mugnaio si trasformò del tutto in contadino. Una primavera ardente ingialliva già le campagne, le vespe e le api ronzavano intorno alla casetta di zia Tatana, il grande sambuco del cortiletto coprivasi di un meraviglioso merletto di fiori giallognoli. Nel cortile di Anania conveniva quasi sempre tutti i giorni la compagnia che già usava riunirsi nel molino. Zio Pera con Randello, Efes e Nanna costantemente ubriachi, il bel calzolaio Carchide, Bustianeddu ed il padre, nonché altre persone del vicinato. Inoltre, Maestro Pane aveva messo su bottega in un bugigattolo in faccia al cortiletto. Tutto il santo giorno era un viavai di gente che rideva, gridava, si insultava, diceva male parole. Il piccolo Anania passava le sue giornate fra questa gente meschina e violenta, dalla quale apprendeva atti e parole sconce, abituandosi allo spettacolo dell'ubriachezza e della miseria incosciente. A fianco della bottega di Maestro Pane, in un altro bugigattolo nero di fuliggine e di ragnatele, marciva una misera ragazzetta inferma, del cui padre, partito per lavorare in una miniera africana, non si era saputo più nulla. L'infelice creatura, soprannominata Rebecca, viveva sola, abbandonata, piagata, su una stuoia lurida fra nugoli di insetti e di mosche. Più in là abitava una vedova con cinque bambini che mendicavano. Lo stesso maestro Pane chiedeva spesso l'elemosina. Con tutto ciò la gente era allegra. I cinque bimbi mendicanti ridevano sempre. Maestro Pane parlava con se stesso ad alta voce, raccontandosi storielle amene e ricordandosi fatti allegri della sua gioventù. Solo nei meriggi luminosissimi, quando il vicinato taceva e le vespe ronzavano tra i fiori del sambuco, conciliando il sonno al piccolo Anania, coricato supino sul limitare della porta, vibrava nel silenzio caldo il lamento acuto di Rebecca, che saliva, si spandeva, si spezzava e ricominciava. Slanciavasi in alto, sprofondavosi sottoterra e per così dire pareva trafiggesse il silenzio con un getto di frecce sibilanti. In quel lamento era tutto il dolore, il male, la miseria, l'abbandono, lo spasimo non ascoltato del luogo e delle persone. Era la voce stessa delle cose, il lamento delle pietre che cadevano ad una dai muri neri delle casette preistoriche, dei tetti che si sfasciavano, delle scalette esterne e dei poggioli di legno tarlato che minacciavano rovina, delle euforbie che crescevano nelle straducole rocciose, delle gramigne che coprivano i muri della gente che non mangiava, delle donne che non avevano vesti, degli uomini che si ubriacavano per stordirsi e che bastonavano le donne e i fanciulli e le bestie perché non potevano percuotere il destino. Delle malattie non curate, della miseria accettata incoscientemente come la vita stessa. Ma chi ci badava? Lo stesso piccolo Anania, coricato supino sul limitare della porta, scacciava le mosche e le vespe, agitando un fiore di sambuco, e pensava istintivamente: perché grida sempre quella lì? Cosa la fa gridare? Non ci devono essere gli ammalati nel mondo? Egli si era fatto tondo tondo, ingrassato dai cibi abbondanti, dal dolce far niente e soprattutto dal sonno. Dormiva sempre ed anche nei meriggi silenziosi, nonostante il grido continuo di Rebecca, egli finiva con l'addormentarsi, col fior di sambuco nella manina rossa e il naso coperto di mosche. E sognava di trovarsi ancora lassù, nella casa della vedova, nella cucina vigilata dal gabbano nero che pareva un fantasma appiccato. Ma sua madre non c'era più. Era fuggita lontano in una terra ignota ed un frate veniva dal convento ed insegnava a leggere e scrivere al piccolo abbandonato che voleva studiare per mettersi in viaggio alla ricerca di sua madre. Il frate parlava, ma Anania non riusciva a sentirlo perché dal gabbano usciva un lamento acuto e straziante che assordava. Dio mio, che paura! Era la voce dello spirito del bandito morto. Ed oltre alla paura, Anania provava un gran fastidio al naso e agli occhi. Erano le mosche.